Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, tornati in diretta. Ancora buona serata da Flavio e da Maurizio. Abbiamo gli ex direttamente da Verona e quindi non ci perdiamo in chiacchiere, vogliamo ascoltare assolutamente la musica che ci propongono, tratta dal loro ultimo lavoro che si intitola Day. Cosa ci fate ascoltare? Partiamo con Senza te. Senza te. Eccoli qua. Nella stanza intorno a me, tu distante, anni luce o forse più, e non riesco a credere. E non so se riuscirò, ma alla fine impazzirò. Una notte senza te, un'alta bionda è il profumo che ho di te, tu sempre pronta. Proprio oggi non ci sei e non ci posso credere. Tutto il tempo conterò, ma alla fine impazzirò. Una notte senza te. Nel tormento tutto mio, tutto il tempo conterò. Nel tormento tutto mio, yeah. Di una cura forse io, ho bisogno in questo istante. Di una cura io. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato questa canzone in versione acustico, tanto per dare il benvenuto agli ex con questo loro nuovo lavoro che si intitola Day. Abbiamo ascoltato la traccia numero 3 del disco che si intitola Senza Te. L'avete ridotta in modo molto scheletrico, tu hai una voce graffiante, potente, che entra immediatamente. Mi ricorda molto anni 70, qualche band, non so, gli Uriah Heep, cosa dici? Vocalist dell'Uriah Heep, chiaramente non a quei livelli, però l'impostazione secondo me ricorda quel momento importante dell'hard rock. Infatti rock. Ritornando al discorso degli ex, il mio primo gruppo era un gruppo anni 70, spaziavamo un po' su quel genere lì, però chiaramente sì, poi le cose sono cambiate, però l'impulso, cioè il rendere scheletrico il pezzo, è dato un po' di blues secondo me, c'era un po' di blues nascosto, ma che veniva c'erano fuori. Queste belle chitarre cupe, no? Le belle chitarre così, cupe, perché sono quelle che rendono anche un po' la tristezza del senza te in questo caso, no? Certo. Per cui uno suona abbastanza arrabbiato, no? È deciso sulle chitarre, e poi naturalmente la voce di Roby diceva qualcosa di molto importante di questo disagio. Esattamente. A proposito, sentitevi invece a vostro agio all'interno dei nostri studi, perché vi guardano anche in live stream, quindi collegandosi al sito diretta rockwave.tk si possono vedere anche gli ex, eccoli qua. Esattamente. Poi è arrivata la tenutaria del live stream, cioè delle telecamere, che è la Chiara, che poi vi farà le fotografie. È appena arrivata. Quindi. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao, ciao. Ok, ecco. Allora, ritornando al discorso, come nasce il gruppo X? Cioè, abbiamo detto quarto album, però tornando indietro con il tempo, tu che sei il frontman, la voce, una tornando piccola... proprio agli dimmi. X, gli ex primi, praticamente quel periodo di musica anni 60, anni 70, stava cominciando un po' a stufare, non essere più il genere che mi piaceva suonare dal vivo, cioè sentivo un po' più, avevo bisogno di un po' più di carica. E allora io e il batterista, il primo ex degli ex, quello che fra l'altro compare, quello che fra l'altro compare nel poster del pazzo in fondo, il disco. Abbiamo formato il primo nucleo, la prima essenza, il primo momento degli ex. E poi pian piano si è evoluta la storia. Com'era Verona a quell'epoca? Verona sappiamo che ha dato molte cose, sia dal punto di vista del rock e non soltanto dal punto di vista rock, tanto per citare i Gatti di Vicolo, Miracoli. Ma cos'era Verona a quel tempo musicalmente, per non ti ricordi? Ma certo, tantissima musica, tantissimi gruppi, purtroppo pochissime possibilità di uscire, cioè con tutta la quantità di gruppi e di gente che suona a Verona, e bravissimi anche musicisti che girano per Verona, le possibilità per uscire, per far ascoltare la propria musica, sono veramente poche e difficilissime. Questo è un discorso di un po' di tempo fa, ma è valido anche adesso. Cosa dici Flavio? Assolutamente una cosa attualissima, lo testimoniano anche i vari gruppi che vengono qui appunto a proporre la loro musica alternativa, e sì, trovano tutti queste difficoltà. Ci si presenta piuttosto nei vari bar, paninoteche, discoteche varie, presentando delle cover e poi buttando qua e là delle proprie chicche, tanto per non dare troppo nell'occhio. Noi le cover mai. Ecco. Noi abbiamo la testa dura, sì, quindi sì. Mai. Tutta la no, forse quando ex. Proprio è iniziato il progetto c'erano molte meno cover band. Infatti io non sono contro nessuno, chi suona dal vivo merita rispetto. Sì, però sì, sicuramente. C'è sempre quella cosa strana che le cover band tolgono musicisti bravi che potrebbero suonare e inventare musica nuova, e questo è dovuto anche a quello che è la richiesta dei locali, purtroppo. Sì. Purtroppo c'è sempre questo di mezzo, anche perché poi il locale ha bisogno alla fine di incassare, no? Per cui se l'artista produce, presenta musica propria e nessuno la conosce, diciamo, e non c'è neanche questo modo per farla conoscere, Allora lì è come un cane che si mangia la coda. Guarda, insomma, io dico sempre che siamo al contrario degli stati anglosassoni. Eccola. Sì, è vero, hai ragione. Non l'abbiamo mai sentito questo discorso. Hai ragione. Cioè, proprio così, se vai in America, vai in Inghilterra... Prima inizi a suonare cover e poi fai musica tua, invece noi purtroppo è il contrario. Prima inizi a fare musica tua e poi ti stufi e fai cover. Ecco, a posto. E negli altri stati la gente che suona musica propria è considerata, cioè certo, anche una band emergente... La sentono, la rispettano, mentre in Italia la band emergente, o se fa cover, riesce ad emergere lentamente, forse durante l'esibizione un pezzo suo lo può mettere, ma se no è impossibile. Ti dirò di più che secondo me è anche una questione proprio anche di, non so, giornalismo o qualcuno che segue, cioè in America o in Inghilterra quando esci hai tutti a tuo favore. In Italia hai tutti contro, tutti che tu non sei del Mississippi, non sei di questo, di quell'altro. Invece sì, la pompa, hai capito? Perché dall'altra parte i critici sanno suonare, da questa parte non lo sanno fare, per cui fanno i critici, giustamente, dovranno trovarsi anche un lavoro anche loro. Vabbè, allora dobbiamo ascoltare qualcosa dal vostro disco. Certo. Che traccia abbiamo scelto? Ah, giusto. Verona 80, tanto per ricordare com'erano quei tempi. Allora l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarli insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tempo che passa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, abbiamo sentito di che pasta sono gli ex con questa Verona 80. Ancora benvenuti agli ex direttamente da Verona, se non l'abbiamo capito anche in questa canzone. Sì. Quindi salutiamo ancora una volta Adriano, ciao. Batteria per l'occasione, Gabriele al basso, ciao. Stefano alle chitarre. Ciao. E Roby alla splendida voce. Ciao, grazie. No, abbiamo sentito una grande potenza, non solo della voce, ma anche in questo pezzo c'era anche un basso ben presente. Già normalmente lo si sente in sottofondo molto. Mister Mago Ago. Eccolo qua. Grazie. Quindi, ecco, in questo pezzo ti abbiamo sentito, Gabriele, ancora più deciso. Sì, perché. A me piace suonare con gli ex anche per il motivo che siamo chitarra e basso e non un'altra chitarra, una tastiera, quindi il basso ha molto più spazio rispetto ad altri gruppi dove ci sono due chitarristi, un chitarrista e una tastiera, quindi riesco a fare di più e esprimere più me stesso, diciamo. Quello che definisco io duro e crudo in questo caso. Duro e crudo, esattamente, due ad accordi. Un basso suonato ad accordi non è una cosa che si sente spesso, diciamo. Verona 80, 30 anni fa, 30 o 31 anni fa, voi ve la ricordate, ma eravate piccoli perché siete giovanissimi. Ecco, appunto. Lui è giovane. Lui è giovane. E quindi avete questi flash allora di quella che era la Verona degli anni 80, ancora no. Non potevate viverla direttamente. Noi due l'abbiamo vissuta perché noi siamo vecchi. Vecchi. E noi eravamo adolescenti. Adolescenti, cioè leggermente vecchi, non vecchi. Leggermente vecchi. È tutto merito della musica, comunque allora insomma Verona era la nostra città, la città che esploravamo e che in un certo senso anche subivamo, perché era una Verona diversa da quella che è adesso, insomma, quindi era un'Italia diversa, c'era un mucchio di problemi, si sa, insomma, Verona era il centro della droga, c'era il terrorismo, le bande, e alla fine comunque è stato anche utile per noi, nel senso che ci siamo un po' formati anche così, e per noi è importante mettere nella nostra musica quello che vediamo all'esterno, ma anche quello che abbiamo visto in passato, vedere. E forse è anche per questo, insomma, che ci siamo formati in un certo modo e che non ci lasciamo tanto intimorire da situazioni di difficoltà come può essere per un gruppo che fa musica originale, proprio perché insomma ci siamo fatti un po' le ossa sulla strada, e quindi anzi abbiamo anche una canzone che si intitola sulla strada. Ecco, bene, magari dopo lo ascoltiamo, decideremo poi se farla da disco o in diretta, no, non si sa mai, visto che c'avete di no, perché è violentissimo, è molto cattivo. È quasi suonabile in acustico. Vabbè, l'importante è poi alla fine trasmissione ritrovare i microfoni poi, così come ve li abbiamo ceduti all'inizio. No, siamo venuti acustici solo per voi, quindi sì, grazie. È stata una cosa speciale per Rock Wave Live stasera. Quindi. E poi noi abbiamo parlato del basso. Gabriele nel basso pompa, come ha detto giustamente Flavio. Sì. Pompa anche qua, no, praticamente. Ma dal vivo mi dicevi a microfono spento che fai questi giri un po' funky, praticamente. Ti sei buttato, non hai buttato totalmente, ma quasi. Sì, cioè, un risvolto funky. È un cambio di stile. Io rispecchio un po' la musica che ascolto nei vari periodi della mia vita. Ho iniziato ascoltando heavy metal e adesso sto ascoltando un po' di funk, un po' di jazz, e così mi piace, imparo le canzoni degli altri, non suono le cover dal vivo, però a casa per allenarmi mi imparo le canzoni degli altri e dopo insomma lo stile cambia. Certo. E quindi abbino metal, funky e quello che può essere, perché è uno stile mio personale, diciamo, per essere diverso, offrire un prodotto diverso, diciamo. Flavio, adesso come prodotto diverso, Verona anni 80 fatta assolutamente live e acustica. Il basso è un basso acustico, è una chitarra praticamente. Però è una chitarra sempre potente. Ma sì. Ok. Andiamo. Tenera. Ehi mamma, quanto tempo che è passato per la via, quanta gente che ho lasciato, e solo adesso ho un momento per pensare quanto sono fortunato. Ed è qui dell'Italia la banco che calda la notte, delle fiamme in discoteca e poi le mode sempre nuove da provare, senza troppo affondare. La polizia sempre in agguato, ma la mala che oggi ha sparato, e periferia fuori controllo, vero non 80, vero nel centro. Vero non 80. Ed ora la mia mente coi ricordi torna ad allora, sono sempre cento all'ora e poi le mode sempre nuove da provare, senza troppo affondare. La polizia sempre in agguato, ma la mala che oggi ha sparato, e periferia fuori controllo, vero non 80, vero dal centro. Vero non 80, e sempre in agguato, la mala che oggi ha sparato, e periferia fuori controllo, vero non 80, vero nel centro. Vero non 80, vero non 80, vero non 80. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio Sera, Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche in versione acustica questa Verona 80, tanto per carpire le due possibilità d'ascolto che ci sono, mentre vediamo che c'è qualcuno che già si sventola. È caldo, il nostro batterista Flavio. L'atmosfera si sta riscaldando. Sta suonando meno adesso però. Beh, mi muovo molto. Più rumore di tutti. Sono quello che si muove tanto io. Sì, sarà stato in versione acustica questo pezzo sicuramente, però aveva una grinta che una versione acustica, sì, perché chiaramente gli strumenti sono questi, una radio, una stanza di una radio è un po' strano, la versione elettrica è un po' difficile, però è un acustico molto pompato, nel senso giusto del termine, anche il testo era forte, un testo che non lasciava mezze misure, ti entrava subito nello stomaco. Ma noi siamo cattivi. Sì. Diciamo che rispecchia il nostro modo di suonare con passione. Siamo cattivi. Non sappiamo suonare piano. Esatto. Bene, allora cerchiamo di capire, per dare maggiori informazioni ai nostri ascoltatori, come si può fare per conoscere qualcosa di più dagli extra, di extra dagli ex. Ecco, c'era un gioco di parole che riguardava appunto come trovarvi su internet, su Google, se tu scrivi ex, ti viene fuori di tutto, come dicono. Di tutto, quindi, esatto. Sì. No, allora, o ex puro rock, perché noi abbiamo appunto i domini MySpace e Pasta Rock. Pasta Rock. Eccolo qua. Sì. Siamo tutte le denominazioni Facebook, ex Pasta Rock. Esatto. Come mai Pasta Rock? Siete legati a qualche catena alimentare? Non so, no? sempre facendo il discorso John Wayne, quando abbiamo cominciato col disco John Wayne, ci siamo inventati questa cosa del Pasta Rock o Spaghetti Rock. Perché come Sergio Leone aveva fatto lo spaghetti western, quindi prendeva un genere americano, l'ha trasportato in Italia, gli ha dato poi una sua dignità, che adesso anche gli americani vengono a copiarlo, chiaramente non allo stesso livello noi, però noi prendendo un genere di matrice anglosassone, cantandolo in italiano, quindi digerendolo e riproponendo la nostra maniera, ci è sembrato di fare un po' lo stesso percorso e quindi l'abbiamo spesso, insomma, lo chiamiamo Pasta Rock, Spaghetti Rock. Fantastico. Dopo Sergio Leone è Sergio Leone, gli ex sono gli ex. E a proposito di Sergio Leone, beh, lo sapete meglio di me, sì. Molti gruppi hard on metal amano fortissimamente la musica di Morricone, certo, la musica, cioè, la musica di Sergio Leone fatta da Morricone, Metallica in primis, che aprono i concerti con un pezzo di Tarantino come regista, cioè sono stati dei maestri, appunto, quando a suo tempo non Sergio Leone, ma il genere un po' era sottovalutato. È vero. Era molto sottovalutato, i B-movies, queste cose, anche il poliziesco anni 70, per esempio Verona 80. Adesso gireremo un videoclip se ce la facciamo. Bene. E lo impostiamo tutto come se fosse un poliziesco anni 70, anni 80, insomma, giusto per ambientare. Vi chiamate anche l'Ubaldo là, di turno. Avevi in mente un'altra Ubalda negli anni 70. Quella era un'altra cosa. Quella era già un problema. È già un problema cercare la macchina. Anni 70. Stiamo cercando una Alfa, Giulietta. O una Giulietta, sì. Dobbiamo trovarla. Basterebbe un Alfa Sud. Una Giulia. Alfa Giulia. Ma ce ne sono ancora. Anche l'Alfa Sud, è vero, anche l'Alfa Sud è proprio caratteristica. Ma, sì, ma basta anche una Sinca, voglio dire. Non quelle... è proprio da poliziesco anni 70. Con la sirena. È più da Fantozzi. A proposito di rock, un altro vostro album del 2002 si chiama proprio Puro Rock. Sì, Puro Rock. Perché, insomma, anche per quello che prima dicevo, Puro Rock. Mm. Perché per noi la musica che facciamo è quello. Nel senso, non è che ci, con arroganza, diciamo che facciamo... Però quello che sentiamo di fare proprio per tutte queste influenze è che si mescolano e alla fine poi non si rifanno più una cosa a un gruppo o un genere in particolare, per noi è il rock, cioè noi facciamo rock, che è puro rock, non è metal, non è grunge, non è rock italiano, non è punk, non è progressive. È il vostro, è il nostro rock. Sì, è il nostro rock. Cerchiamo un termine per spiegare bene cosa facciamo. È impossibile, perché è impossibile. È impossibile. Difficilissimo. 30 secondi per spiegare dal vivo, ogni praticamente siete in quattro componenti della band, allargati i vostri orizzonti nel pezzo, non so, il cantante va oltre, il chitarrista va, il bassista va oltre, il batterista fa un assolo e tu lo stesso, oppure il pezzo è simile a quello inciso nel disco, allora, anche se live tende ad allargare, a stravolgere, a cambiare. Sì, ma sicuramente dal vivo c'è anche spazio per un po' di improvvisazione, poi siccome i nostri live, comprendendo il quinto ex, che è quello che non suona, ma siete che, viene, come i Rolling, che viene a disturbare. Quinto Rolling, praticamente. Siccome lui viene a disturbare, quindi ogni volta è una cosa impossibile da prevedere. Ma in effetti, siamo pronti a tutto. Anche nel vostro libricino del CD, esatto, che si apre a mo' di poster, voi siete in una posa plastica, insomma, degna da fotografia, voglio dire, e poi in fondo c'è questo pazzo, la bestia, il famoso la bestia, e sembra proprio l'esclamazione della serie Dei, presa direttamente dal titolo del vostro disco. La cosa positiva anche è che continuiamo a divertirci, cioè non prendiamo la musica o i live come una cosa di patema, insomma ci divertiamo molto, siamo sempre noi stessi alla fine e quindi anche la gente poi si diverte, insomma siamo molto leggeri nell'approccio alla musica, insomma, e al live. E per continuare dopo 13-14 anni bisogna divertirsi, se no è difficile, se non diventa un lavoro, se no diventa un lavoro, una band professionista diventa un lavoro, però è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Suoniamo? Cosa suoniamo adesso? Lo suoniamo? Luce e fumo, visto che non deve diventare un lavoro. c'è nel testo, esatto, c'è di questo. col suo lì. E qualche strana melodia, oh, che mi fa viaggiare un po', ma all'improvviso luce si accende, strofe e fumo negli occhi a luce, yeah, luce si accende, strofe e fumo negli occhi a luce, e che ci ispira non lo so, oh, forse un po' di vecchio rock. E tutte queste novità e non ci danno fantasia, ma all'improvviso luce si accende, strofe e fumo negli occhi a luce, yeah, luce si accende, strofe e fumo negli occhi a luce. Io lo so, ne uscirà una musica, yeah, che per noi sarà solo unica, yeah. Io lo so, ne uscirà una musica, yeah, che per noi sarà solo unica, yeah. Pino. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, siamo ancora in compagnia degli ex direttamente da Verona. Grazie ragazzi per essere venuti qua da noi per farci ascoltare questa bella musica. Ricordiamo, il nuovo lavoro si intitola Day e abbiamo ascoltato questa bella canzone che si intitolava Luce e Fumo. Luce e Fumo, che poi ascolteremo anche nella versione un po' più voglio dire, da disco metal. E un po' più metal, ecco, diciamo così. Dobbiamo sottolineare una cosa, Flavio, molto interessante. Sì. Hanno fatto una specie di suite in questo pezzo. Il nostro batterista chiaramente non ha la batteria, però ha gli strumenti percussivi, possiamo dire così. Sì, sì. Hai fatto un sacco di stop and go. Non hai messo in difficoltà i ragazzi, perché ho visto tutto preparato, ma tutto preparato così, molto, molto piacevole. È stata una vera e propria suite, a me è interessata decisamente, da una ballad è passato un pezzo un po' più duro e poi è ritornato una ballad. Se vuoi ti regalo una cassetta forse con tutti i suoni. Forse perché io non sono un percussionista, non sono capace di essere un percussionista, quindi l'ho fatta come se fosse una batteria. È bello, è bello, perché hai fermato, hai ripreso, hai praticamente guidato gli altri tre tuoi colleghi. Sembrava quasi che il cantante si versasse da bere mentre cantava. In realtà era naturalmente il buon Adriano che stava bastone maneggiando con il bastone della pioggia. Portato da Mago Ago. Grazie. E quello strumento che usi, mi fai sentire un secondo questo qua? La zucca. Il nome? Non si sa. Questo è un problema, però è una zucca. Benissimo. Bel pezzo. Mi ricordavo, come avevo detto, una specie di ballad. Luce era un pezzo di molti anni fa, solo Luce, era un pezzo dei Corvi, Flavio, te lo ricordi i Corvi? I Corvi avevano questa caratteristica di essere un gruppo beat, ma molto rockettaro, molto forte. Ragazzo di strada e altre cose, con quel corvo famoso sulla spalla del chitarrista. Era un corvo vero, non era mica... Era veramente un corvo, che aveva il maestrato che rimaneva su... Tu sei molto giovane, non puoi sapere questo che ho. Appena nato. Sei molto giovane, molto giovane. No, per dire tanto questo riferimento, noi una cover ogni tanto facciamo, a modo nostro, che è Confessione di Biglietto per l'Inferno, quindi un vecchissimo progressivo. Infatti quel discorso che vivo che facevi, dal vivo è fenomenale, ci piace molto e piace molto anche alla gente, anche perché la facciamo senza tastiere chiaramente, quindi l'abbiamo dovuta riarrangiare un po'. Esatto. Però quel discorso che facevi degli anni 70, anche della voce così, insomma, un po' di linfa viene anche da lì, perché noi eravamo ragazzi negli anni 70, noi due vecchi, sempre vecchi, tra sì, e quindi siamo venuti su con quella roba. Certo, il Biglietto dell'Inferno fondeva il rock abbastanza duro, con molte cose jazzate, erano molto bravi. Molto melodici. Infatti io, quando presento quella canzone lì, dico sempre, quel periodo che è uscita questa canzone in Italia c'era Albano. C'è ancora. Sì, no, c'è ancora. Niente da dire, per carità, una bella voce. Erano gli anni... Sandro Giacobbe. Sandro Giacobbe. Però ricordiamo che nello stesso periodo c'erano anche i Semiramis, insomma, da cui è venuto Zarillo. Il rovescio della medaglia. Ecco qua, Balletto di Bronzo. Balletto di Bronzo, molti altri, insomma, che tra il 70 e il 74 si sono divertiti come nel proporre la musica. E ne sappiamo qualcosa perché con Maurizio abbiamo anche avuto il piacere di intervistare molti di quegli artisti di quel tempo che sono ritornati adesso a riproporre il progressive in versione 2010-2011. Dobbiamo fare i complimenti perché nonostante l'età, hanno 62-65 anni, hanno un'energia ancora dentro fantastica. Vabbè, ma torniamo a parlare con ex, visto che abbiamo parlato di quelle che possono essere i vari gusti musicali o le provenienze, ovvero quello che si ascoltava un tempo e che ha un po' forgiato quello che è il vostro carattere musicale. Vogliamo dire per ciascuno di voi, carissimi ragazzi, quali sono i dischi che più vi piacciono, che più... Vi portereste in un'isola deserta, quel famoso gioco dell'isola, Maurizio. Ma uno o più di uno? Tre, facciamo tre. Dischi a testa. Sì. Ma allora, chi per parla? Me, eccolo qua. Comincio io. Parla Mago Ago. È deciso. Gabriele. Allora, io porterei Killers degli Iron Maiden. Sì, tanto per dire una cosa leggera. Sì. Esattamente. Sì. Emergency on Planet Earth degli Jamiroquai. Ecco. Il funk ritorna, funky ritorna. E Blood Sugar Sex Magic dei Red Hot Chili Peppers. Ah, fantastico quello. Anche. Questi per me sono tre capisaldi. Ancora non erano così famosi. Non si erano così, diciamo, un po' addolciti un attimo per il mercato, che comunque massimo rispetto anche per le ultime produzioni. La Californication è mica un disco addolcito. Infatti, massimo rispetto. È un grande disco. Però leggermente un po' più... Un po' diverso, sì. Sì, è molto più ascoltato. È molto più fluido e pop. Un po' più pop, diciamo, rispetto... Massimo rispetto. Ecco, quindi, assolutamente sì. Abbiamo visto molto determinato Mago Ago, sì, come lo chiamate. Quindi Gabriele subito i tre dischi li ha sfornati, così, messi sul piatto. Sentiamo adesso se altrettanto così... No, ce ne sarebbero da portare tanti. Sì. Uno che mi viene in mente subito è Powerslave di Iron Maiden, quello, eccolo. Quello assolutamente. Poi tutto il resto, quello che viene va bene, insomma, non è un problema. L'importante è che ci sia quello. Basta che ci sia Iron Maiden. Sì, il nostro batterista. Beh, guarda, io sono molto legato al rock americano primi anni 90. Io porterei Super Unknown dei Soundgarden. Sono molto legato al grunge. Soundgarden, incredibili, incredibili. Esatto, anche Tende per Jam, insomma, sì. Poi però mi piacciono anche molte altre cose. Tende è fondamentale per anche me. Anche Tende mi piace. È fondamentale. Il nostro Baldo chitarrista qui davanti, vai. Allora, quindi io il Pisa, il Pisa, premesso, come lo chiamano, esatto. Stefano Pisani, sì. Premesso che ascolterei tutto quello che hanno portato loro sull'isola, perché poi tre sono troppo pochi. Si tratta solo di aggiungere a questo. Esatto, sì. Jimi Hendrix, Electric Ladyland, sì. Led Zeppelin 2, Zeppelin. E poi non so, per quello che ho detto, è difficile. È difficile, e dopo una vagonata di altro, insomma, SDC, Ramones, c'è di tutto. Ma i perni fondamentali, Jimmy e i Led. Sì, sì, assolutamente. Esattamente. Bene, okay. Allora abbiamo fatto questa carrellata, abbiamo capito quelli che sono i gusti musicali degli ex, e adesso facciamo prendere un po' di fiato prima di continuare la tornata live ascoltando un altro pezzo dal loro ultimo lavoro, che si intitola Day, e andiamo con la traccia numero 6, che è proprio la title track, come si dice. Poi di là Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tanto per capire come suonano gli ex, abbiamo ascoltati in versione acustica, però insomma va bene dare una galoppata di questo genere, tanto per capire da vicino qual è il loro cuore, quello, il loro sangue, insomma il sangue è veramente hard rock, heavy metal, che insomma non vuol dire sempre cattivo, no? Vuol dire vivace, strong, potente, ma potente, certo, devastante in alcuni momenti, positivamente devastante. Sempre, ecco, esatto, sì, devastante positivamente. Sempre musica. Sempre musica. Sì, sì. A proposito di questo, dobbiamo anche ricordare il nostro curatore, organizzatore, direttore artistico, che è Alberto Prisco. Grazie a lui, stasera siete qua, lui organizza tutti i live, certo, del nostro, grazie, programma. Grazie, grazie, grazie Alberto. Ci siamo, okay, anche sentiti. Ecco, pezzo, esattamente. Parliamo un momento della tua voce che è scoppiata al finale del pezzo, volutamente, che deve essere così, un pezzo heavy, un pezzo potente, deve avere il vocalist che alla fine dà lo sbotto, dà il colpo, secondo me. Cosa dici? Sì, beh, ti dico, io sento sempre, infatti, tanti pezzi che poi proviamo in sala, hai capito, magari non vanno mai fuori da... cioè suonati o proposti, proprio perché devo sentirlo. Tutto quello che senti dal vivo o sul disco è proprio una cosa che viene da dentro. Certo, certo. Al 100%, cioè nel senso che quando sento la voglia di gridare lo piazzo nelle varie canzoni. Se sta bene, si fa. Bene, sì. Flavio, dobbiamo ricordare una cosa, tu non, l'hai, sì, non lo potevi sapere perché c'era il microfono spento e parlavamo noi tre praticamente. L'album è stato fatto con pochissimi con pochissime take, quasi da, sì, di getto, sì, praticamente, è così. Sì. Diciamo che la sezione ritmica, io e Adriano, grande batterista Adriano, grazie, che grazie, va perfettamente a metronomo ed è una cosa essenziale. Abbiamo registrato... tutta la sezione ritmica in circa 8 ore. Ah, sì, circa 8 ore, e insieme lui andava a metronomo e io seguivo lui. Quindi praticamente c'è un impatto prima, molto live. Molto live, suonando, sì, subito il basso e la batteria insieme. C'è più groove. C'è più groove, se riesci più a trasmettere. Si amalgamano meglio gli suoni. Esatto. Bene, ma bene. Sì, anche perché questo disco doveva essere, non doveva essere una cosa diversa da quello che siamo poi anche dal vivo. Quindi abbiamo cercato di fare meno sovraincisioni possibili. Sì. E di rendere proprio quello che sono gli ex dal vivo, insomma, senza essere troppo scarni, perché comunque era una buona occasione per fare un bel disco. E quindi abbiamo trovato, secondo noi, una buona via di mezzo. Certo, certo. Quindi l'inserimento della tastiera, diciamo, non viene assolutamente considerato. E nel puro rock non è previsto. In alcuni pezzi magari ci starebbe, di verità, alcune tastiere, però... Però si mantiene quella che è l'anima solida del puro rock, sì, come si diceva prima. Siamo, sì, scarni ed essenziali. Per entrare in possesso del vostro disco, come si fa? Allora, varie modalità. Chiaramente, come dicevamo prima, piattaforme digitali su tutte. E tra l'altro su iTunes credo sia anche possibile scaricarsi il libretto, perché noi abbiamo, sì, voluto no credo è possibile, è possibile scaricarsi il libretto no, in effetti l'abbiamo chiesto noi apposta, e in più ci sono anche alcune bonus track, sì, un paio di, ma c'è anche la promozione, mi sembra, su iTunes rispetto, sì, a sì, costa, insomma, un po' di meno. Dopodiché sicuramente ai concerti, e poi abbiamo questa distribuzione che si chiama Atomic Stuff, c'è anche il sito, quindi loro coprono un po' di gruppi metal, hard rock, rock in generale. Si copre il nord Italia. E coprono i negozi del nord Italia. Ah, bene, bene, ok. A proposito dei concerti, fra due giorni avete uno? Sì, suoneremo a Verona, perché stiamo promuovendo il disco, al Jamaica Happy Pub, che è in zona Zai di Verona, esattamente in via Ciro Ferrari 11, così diamo l'indicazione giusta. E giovedino questo? Per i navigatori questo, che si sbagliano sempre indirizzo. Esatto, ecco. Via Ciro Ferrari 11, Jamaica Happy Pub, verso le 10:30, ingresso gratuito, proponiamo tutto il disco, un po' di inediti, ci divertiamo come sempre, ci sarà la bestia, esatto, che ravviverà la serata, farà inorridire. E ricordatevi che c'è anche il Vinita lì a fianco, e poi quindi c'è anche il Vinita, ci sono gente, esatto, comincia proprio il set, prima il gente strana che si aggira per la zona. Sono dei gotti, vai. Prima in Italia e poi dagli ex. Assolutamente esatto. Sì, dire, si arriva carichi da voi, no? Esatto. Però mi raccomando, si va a piedi dopo essere vicino, eh. Esatto. Mi zona industriale anche il Vinitali, quindi... escono dal Vinitali e vengono da noi, certo. A piedi, sì. Un po' gobbi magari, ma un po' storti, un po' storti. Vabbè, allora diamo spazio ancora alla musica live degli ex, sempre per ascoltare qualcosa dal loro ultimo CD che si intitola per l'appunto Day, che stiamo presentando in questa serata. Cosa abbiamo scelto? Occhi nella nebbia, che noi chiamiamo la canzone di Sanremo, perché quella è un po' più melodica, anche se poi ci sono degli sprazzi. Lo dici quasi vergognandoti, citando una cosa. Lo diciamo per prenderci in giro. Certo, vabbè, allora lo ascoltiamo. Vola a bassa quota e senza una meta, questa sera non mi fa paura, è un po' d'avventura. E dai, che fai? Ora, ora vieni o sta sempre come ieri, sciolgo i miei pensieri e con ricordi usati, con la fretta di cercare qualcosa e senza alcuna scusa. E dai, fai ora, ora vieni o stai. La sera in quell'età con voi e prenderò per mano i sogni miei e non li lascerò. Con la fretta di cercare qualcosa e senza alcuna scusa. E dai, che fai? Ora, ora vieni o stai? La sera in quell'età essere in quell'età con voi e prenderò per mano i sogni miei e non li lascerò. E poi non me li scorderò mai più nella sera in quell'età con voi. Ti prenderò per mano i sogni miei e non li lascerò. E poi non me li scorderò. Me li scorderò mai più. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo era Occhi nella nebbia, a cantarla gli Ex. Il loro ultimo lavoro si intitola Day e tra le varie preziosità del disco c'è anche la possibilità di seguire i testi direttamente dal libretto, li avete stampati a forma di poster da una parte per vedere i vostri volti decisi e molto rock, e poi dall'altra parte invece, oltre alla copertina, la presenza di tutti i testi. Come vi siete messi d'accordo per i testi? Come sono nati? Come sono evoluti? Abbiamo sempre parlato della musica, abbiamo parlato poco di quella che è l'evoluzione dei testi. Ma guarda, i testi sono praticamente già scritti in testa, nel senso che quando si sente la canzone, si arriva al filone giusto, poi si escono. Parte. Sì, sì. Poi vabbè, durante le prove si sistema magari una parola che ci sta meglio di un'altra, e soprattutto l'italiano bisogna anche cercare le parole giuste per non cadere nelle solite banalità, si cerca di dire qualcosa. Famose così dette rime baciate, sì, ci usiamo una volta. Ogni tanto ci scappano. Ci però, scappa, però, sai, nel nostro genere un po' troppe rime baciate, troppe parole amore, le solite cose sono difficili da sistemare. Forse, l'ho sentita la parola amore questa sera? Sì. Un paio di volte forse. Sì, forse. Per forza ci deve essere. Certo. Perché si parla d'amore in tutti i modi, purché se ne parli. Sì, sì. Maurizio. Sì, un altro pezzo live e poi faremo la conclusione della prima parte di questo martedì specialissimo di live assolutamente dal vivo. Eh sì, perché poi arriverà anche Marco Borgato e ci avremo un'altra band di maestri, siamo i Quasar, ma ne parleremo più tardi. Adesso parliamo ancora degli Ex. Cosa ci fate sentire dal vivo adesso? Adesso per chiudere facciamo Evelyn, che è una canzone che non è nel disco Day, ma nel disco precedente, è disco John Wayne. John Wayne. Sì. Che però è stata rimasterizzata e in occasione dell'uscita del singolo Verona 80, presentazione del disco Day, è stata data in omaggio, diciamo, a chi si comprava il singolo sulle piattaforme digitali, insomma. Quindi comunque è una canzone che facciamo ancora dal vivo. E anche questa mi sa che è un po' d'amore, quindi finiamo tra nuvolette e rosa. Sì, dai. Dopodiché basta. Ok, Evelyn. Quando ti vedo nel sorriso poi ecco quando io vedo te, ti rivedo nelle cose intorno a me, tutto quanto che mi parla di te, non riesco forse a dirti stai con me. Quando io vedo te, Radio Veneto. Le tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La chicca per finire ci voleva Evelyn, questo non estratto dall'ultimo, bensì dall'album del 2005, abbiamo detto, esatto, quindi sì. Da John Wayne. Allora, ex, è giunto il momento di considerarvi i nostri ex ospiti. Tanto per... Si può giocare molto, come si diceva in principio di trasmissione. E allora, che dire, rinnovare un appuntamento per un prossimo disco, mi raccomando, non aspettiamo troppo. Speriamo. Perché, voglio dire, la grinta... dei pezzi nuovi li abbiamo. Pezzi nuovi. Avete già qualcosa. Tutti. Bene, e allora... Beh, allora vi aspettiamo per... Il problema è la produzione. Infatti non lo deve sapere, produttore, perché ci ha detto di non dirlo. Dobbiamo spingere intanto questo. Sì, sì, certo. E noi spingiamo con voi perché, anzi, abbiamo fatto una... ritengo una buona pubblicità anche di questo, certo, disco. Poi ce lo siamo sparati io e Maurizio in automobile. Dobbiamo dire veramente, lo consigliamo. Grazie molte, ecco, grazie, Poi, e poi prossimamente mi aspetto anche una bonus track in questa in questa maniera, cioè una versione no, acustica, ecco, vedi, precisamente. abbiamo dato un'idea. E questa era bellissima, sembrava un pezzo folk in alcuni momenti con la tua chitarra che hai colorato, quasi un momento folk, poi hai ripreso la grinta solita, però era un momento folk molto interessante. Quindi è un'idea che ha lanciato Flavio che si può realizzare. Sì, sì, certo. Volentieri. Non era proprio un'idea originale, beh, insomma, cioè, per noi che siamo super elettrici, sicuramente, anzi, certo, merito vostro di averci portato all'acustico, perché poi noi ne parliamo spesso, ma non lo facciamo mai. Come dicevamo prima, l'abbiamo fatto apposta per stasera, e quindi merito anche vostro se poi avrà uno sbocco. Insomma, certo. Poi anche Richie Blackmore, visto cosa sta facendo Black recentemente. Quindi, esatto. Benissimo, allora ringraziamo ancora una volta gli ex, e buon rientro a Verona con la vostra musica, quindi ascoltate il vostro CD poi tornando indietro. No, live. No. Abbiamo il live che abbiamo fatto la registrazione un paio di settimane fa, stiamo studiandocelo. Bene. Grazie mille a voi per l'ospitalità. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Grazie molto. Comunque noi non finiamo con la musica degli ex, adesso stiamo ad ascoltare anche un altro pezzo che prima abbiamo ascoltato in versione acustica, ma adesso ce lo fumiamo anche in versione da disco, quindi Luce e Fumo. Ancora grazie ex e buona musica. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Blu Radio Sera. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati anche nel finale quella che è una delle canzoni tratte dall'album Day degli Ex, questo gruppo che si è venuto a trovare da Verona. Il titolo della canzone è Luce e Fumo, mentre dall'altra parte del vetro si sta preparando il gruppo che suonerà tra qualche minuto. Sono i Quasar e sono venuti a trovarci da Treviso, per cui il tempo di sistemare gli strumenti e i microfoni, e poi naturalmente saremo anche con i Quasar. Nel frattempo ci ascoltiamo qualche pezzo musicale, il tempo proprio per sistemare i microfoni in favore di questo nuovo gruppo che ci farà compagnia fino alla mezzanotte. Blu Radio Sera. Blu Radio.